Don't forget your keys. Salutiamo Sasha Rovelli di Lucesia in quel di Bellinzona. Qualche altro salutino lo facciamo anche a Maya. Maya e Nicola Locci dalla Sardegna. Daniele della Hellbones Records. Valente etichetta qui di Roma. A Roma abbiamo sempre Ilaria. A Firenze Antonio Zoviet come omicidio. Un saluto a Gennaro D'Alena da Instant Lake, Francesco Cornello a Bergamo. Cristiano Bocci, anche lui molto interessante, come Chemical Resistance e altri progetti e collaborazioni. Ultimamente anche con Dario Righi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name. Un nuovo progetto insieme a tre che presto ci ascolteremo. Lupsi, Lucia Cagliazzi, ad Udine. Your pressure is low. E poi Lucky Wick, il medico della peste, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo. Sempre in Svizzera, Attila Folklore di Mulo Muto, che ci ascolteremo più in là. Flavio De Brepcante di Noise Cluster, Gianluca Becuzzi, un grosso abbraccio a lui, un grosso abbraccio a Gianluca. Arianna Degni Lombardo, sempre di Noise Cluster. Finiamo il nostro viaggio in All Foots Fly, ultimo lavoro di Anna von Oswolf. E praticamente ce lo siamo sentito tutto e mancava soltanto proprio la traccia che dà il titolo all'intero lavoro, la lunga All Foots Fly. Naturalmente l'organo la fa da padrone e quindi ci immergiamo nell'universo Anna von Oswolf. All Thoughts Fly, il brano omonimo dell'ultimo lavoro di Anna von Auswolf, una traccia che serve più che altro per dimostrare il virtuosismo di questa tastierista, perché ritengo che nell'album effettivamente ci siano dei momenti più intensi e più incisivi. Interessante però la considerazione che fa Becuzzi sul fatto che ci sia sullo sfondo forse l'influenza di Philip Glass, la ripetitività del modo di suonare della Auswolf. Ricordo ancora una volta, il disco è dedicato al bosco di Bomarzo, al parco di Bomarzo, un magico posto che in qualche modo influenza la magia di questo disco. Intanto vado a ringraziare Alessandra D'Alesio in quel di Londra della Deft Records, che nel frattempo mi rende edotto del fatto che è andata a sottoscrivere per Radio Onda Rossa, perché nonostante che sia scaduto il tempo dell'abbonamento, si può sempre sottoscrivere in qualsiasi modo per questa emittente andando sul sito della radio e scegliendosi la modalità più adatta. Quindi un grosso saluto ad Alessandra. Vado anche a salutare Pioggia d'Ambra, Emanuele Faes e di nuovo Daniele della Hellbones Records che ci sta ascoltando dalla macchina. Allora, arriviamo qui a Roma, salutiamo Stefano Di Serio e proprio lui attraverso Like Awake andiamo ad ascoltare attraverso l'ultimo lavoro At the End of the Dream Where Nothing Remains / Symphonic Noise, il classico formato suite con tutti gli annessi e connessi emotivi che anche in passato Like Awake ci ha donato. E quindi noi ci andremo ad ascoltare la parte centrale di questo lavoro. Abbiamo cominciato ad apprezzarlo la scorsa settimana, i primi 10 minuti. Come ho già detto, sarò costretto a mandarne degli spezzoni data la lunghezza del brano, che però scorre, devo dire, bene nonostante la lunghezza. Dunque ci andiamo ad ascoltare altri 10 minuti di Like Awake.

sicuramente epico, solenne, a tratti siderale, in questa circostanza anche visionario e kraut rock, non disdegnando comunque qualche scheggia noise che sovente arricchisce questa lunga traccia di 65 minuti per quanto riguarda Like Wake. At the end of the dream where nothing remains, ultimo lavoro per lui, per il buon Stefano Di Serio, che saluto, come vado a salutare Michael Bonaventure, splendido musicista scozzese, Psycho Kinder con Alessandro Camilletti, Alessandra dall'Abruzzo, da Fiamignano. Sicuramente riconoscibile ormai Like a Wake, un vero marchio di fabbrica affidabilissimo. Quindi ci siamo ascoltati la parte centrale intorno al 30° minuto e ci ascolteremo altre due sezioni nelle prossime settimane. Si va in Iran, naturalmente attraverso a Raffaele Pezzella, e attraverso Iranian Music Survey, Anthology of Persian Experimental Music, volume 2. Esatto, questo è il secondo volume di questa scena assolutamente interessante proveniente dall'Iran. A me è molto coinvolto questa storia dell'Iran, perché come ho già detto, finché si va a sentire materiale che proviene dall'Europa, possiamo anche aspettarci determinati stati d'animo. Quando provengono dal Sud America oppure dall'Asia e anche dall'Africa, come ha fatto Pezzella in passato, rimango ancora più interessato. Non mi rimane che andare a far partire questo CD con questo artista IDFT, con questa traccia dal nome Hazza. Costui ha anche un profilo SoundCloud che si può andare a cercare. Poi ci ascolteremo Ali Latif Shustari con Mazar, Music for Persian Funeral. Dunque, Ali Latif Shustari, Mazar, Music for Persian Funeral. E se quella di prima era effettivamente un viaggio in una profondità, in un abisso anche intimo, qui è un vero e proprio modo di celebrare il lutto. Personalmente ritengo questo di Ali Latif Shustari uno dei momenti più alti e più intensi di questa pur valida compilation della Nesplay Sounds label, naturalmente di Raffaele Pezzella, dedicata alla scena iraniana, così sotterranea, così misteriosa, così sontuosa. 14 artisti vanno dunque a nobilitare quest'opera e ci sono delle anche interessanti annotazioni sulla copertina finale, dove si afferma che la musica si sviluppò soprattutto nella Persia pre-islamica e quindi in piena epoca Sufi. Quell'impronta è rimasta fino ai giorni nostri e questi artisti chiaramente hanno contaminato gli elementi etnici con una nuova sensibilità moderna e più industriale. Cambiamo radicalmente suono e, come al solito, a partire da novembre dedichiamo uno spazio a John Balance e Peter Christofferson, fondatori dei Coil e quest'ultimo anche dei Throbbing Gristle, scomparsi a novembre, il primo del 2004, il secondo del 2010. Nella sviluppata produzione, diciamo, postuma di questo gruppo, abbiamo scelto Swanyard, un album del 2019, un doppio CD, uscito per la Infinite Fog Productions, valente etichetta russa. Sentite intanto come va avanti la compilation della Persia, fantastica veramente. Tornando ai Coil, ci ascolteremo Spastish, The Nights Alive e Heaven's Blade, John Balance Vox Demo. Bye. Finiva così il primo CD dei Coil di questo Sonyard. Il secondo chiaramente ce lo ascolteremo il prossimo mercoledì. Tanto materiale che andava dal 1993 al 1996 e che venivano, forse sono stati considerati non, come dire, adatti per i dischi di allora. Eppure il materiale che c'è qui dentro è assolutamente prezioso, veramente delle gemme. Molte di queste tracce hanno proprio risentito della svolta elettronica, tra virgolette, adoperata in Love Secret Domain, l'album del 1991, dove c'erano anche delle sezioni dedicate all'acid house. Più avanti poi i Coil divennero ancora più sperimentali, ancora più visionari rispetto agli inizi. Ricordo ho avuto la fortuna di vederli in concerto nel 2004 al Wave Gothic Treffen a Lipsia, in quattro, tutti e quattro vestiti in camicia di forza e tutti quanti nascosti dietro una tenda, ognuno aveva una tenda e suonavano dietro questi quattro baldacchini, un concerto memorabile. E pensare che poi quell'anno a novembre purtroppo John Balance ci lasciò. Torniamo in Italia. Uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni è sicuramente Psycho Kinder di Alessandro Camilletti, che saluto, un artista marchigiano che ci ha donato un ultimo lavoro dal nome Epigrafe, è scritto in piccolo Post Industrial Tapes, infatti ogni traccia porta il nome di tape ed è la formula classica di Alessandro Camilletti. Lui ci delizia con le sue bellissime liriche e mette in gioco tanti musicisti che chiaramente hanno collaborato con piacere alla creazione di questo album. Cominciamo dunque ad ascoltarcelo, ci ascolteremo la tape numero 1 con ospite Moreno Padoan, quindi elettronica graffiata, frammentata come la classica scuola di Moreno Padoan, e anche le virtù elettroniche della tape numero 2 con Michele Caserta. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare.